Per forza. E va bene, allora lasciamo questo qua. Sì. Andare, dai, faccio una bassa. Ah, ci sei? E allora, sono qua, sono qua. Yes, yes, yes. E allora? E allora, beh, te l'ho mettato a sombra un po'. Tanto per cambiare. Com'è questo microfono? Fa buono? Sì, buono. Questo è il microfono originale. Ehi, cappa. Aspetta che vado a mettere le cuffie, che ce li ho giù. Vai, vai. Ok, siamo qua. Sì, sì, sì, sì. Eccomi qua. Gliel'ho finita quella radio a Gianni. Oh, bene va? Sì, gli ho intestato anche, aveva anche un altro MPP4 e gli ho intestato anche l'MPP4. Adesso c'è il microfono amplificato pure. Certo. E almeno esce bene. Ho visto che stavo uscendo bene. Stavo uscendo, che è abbastanza forte. Sì, e c'ha 48. C'ha quella là. Ah, cos'è? 68, 48. Fate la giù, fammela avere quella radio che te la sistemo. E a voi sciamani sono andato dai cinesi a prendere della roba. E... ma non roba elettrica, è roba cianfrusaglie che mi servivano. E gli ho detto guarda che sono qua vicino a casa tua, fammela scendere, infatti glielo ma era tutta canta incianfrugliata, aveva quella scheda dei 45 metri. Pacari dai bra, pacari dai, come te la buccia, questa cosa non te ne dico. E chissà che ce l'aveva, poi non era fottiglia lunga. Pare che abbia manomessa, o una cosa o l'altra. Solo manomessa, Ira. Solo manomessa, Ira. Pacarità è distrutta. Distrutta. Fra. Non lo so quanti vasi la gente a fare le cavolate, che le cose, boh. Caspita, io non è che sia un tecnico affermato, però uno che si mette a fare delle cose, no? Da installare una sorta di queste schede qua, almeno devi sapere quello che stai facendo, no? Invece uno schifo totale, infatti ho detto già questa scheda non si può recuperare, io gliel'ho messa nella scatola insieme alla radio, però addirittura una pastiglia, perché logicamente onestamente io prendo, gliela metto e non me ne importa nulla. Però non è roba da neanche da prendere e mettere in vendita, neanche da chi se è roba da punire diventa un caraccio, perché neanche i componenti puoi recuperarli, a chi sono tutti quanti cagliuti, tutti quanti vatti. Capo, usavo nei 45 metri, perché se ti ricordi, vabbè, non lo so che tu l'hai conosciuto, l'inverter per andare 45 metri. No, io non l'ho conosciuto fra, però questa è scheda, che sicuramente è radio, è scheda installata sulla radio, magari anche installata bene, perché come installazione era installata bene, però magari è stata radio presa e passata da mano in mano, venduta, fatta e ognuno ha provato a fare delle modifiche, perché poi io da internet sono riuscito a risalire alla scheda. E ha tutti i componenti sostituiti, capito? Con condensatori più grandi, con microchip più grandi, watt, cosue, ciambatti mari, saggiature a freddo, piste rotte, mamma mia. È un disastro, la scheda, perché anche è bello magari averla, perché uno dice, c'ho la banda dei 45 metri, una radio e... potrebbe anche valere, però con la scheda in quelle condizioni rischi di far danni, addirittura non funziona lo smitter, non funziona perché è bruciato, lo smitter è bruciato, l'ha bruciato con la scheda. Capo, vabbè, lo smitter si potrebbe recuperare, lo smitter, quello a 120 canali dovrebbe avere. No, il canale 240. Davvero? Ma cos'è? Presidente Jacks? Sì, 5 bande ha. Ah, 5 bande ha. Allora è buono. È una radio a 5 bande, a 240 canali. Quindi gli stava incasinando il canale, il primo canale e l'ultimo canale era incasinato, perché era incasinato da questa scheda, perché dovevi, faceva per esempio, andavi a 6.540 e poi col carrier andavi a 6.535, quindi ti incasinava quel canale lì perché era tutta fatta con i 10 kHz, tu schiacciavi 10 kHz e ti dava l'attivazione della scheda, però i 10 kHz ti sballavano il carrier, quindi gli ho dovuto fare tutto l'oscillatore, diciamo riprendere tutto l'oscillatore e riprendere tutto il PLL, gli ho ripreso il PLL, l'oscillatore e riportati i fili alla sezione sua, però l'SV meter non va, l'SV meter andava solo in trasmissione perché aveva quella scheda, però sulla 27 MHz non è imballato, perché poi andava solo in modulazione, ma chissà quanto da zia, e con le cose su originale non va, ma chi è stato, perché è stato rotto, è stato fatto, però se lo ordina da internet come gli arriva glielo magari me la dà, dico un attimino le virugiamo. Ecco, sì, gli Smith si trovano, quelli della sagatta. Aspetta, quando mi ha detto che 25 watt di potenza, non lo so troppo, Bavisarraggio. 30 watt da 30 watt, tolta la scheda e messa a posto con i finali che sono stati messi, perché ha 2477, invece lei ne ha uno, ne monta uno originali, ha una modifica con una schedina e ne monta due, ed esce con 30 watt questa radio. Io gli ho tolto quel tastino che c'aveva dietro, quell'interruttorino a due posizioni, e gliel'ho regolata a 8 watt, in modo che se doveva attaccare l'amplificatore lo può attaccare. E che i binari durano stanno lavorando a un decimo della potenza, quindi 8 watt. I binari in attesa radio sono proprio riposata. Basta usare il linearetto, un 100 watt ed è a bomba. Sì, gliel'ho portata a 8 watt per quello, in modo che lui magari anche se rimane anche un minuto, due minuti, 10 minuti con la portante inserita, non arriva tenuta, l'ho lasciata a 10 minuti con la portante inserita. E a 27 200 senza dare fastidio, 10 minuti arriva la radio sotto controllo, è qua la radio, non ha cagliuto nuda, quindi è rimasta perfetta e niente, gliel'ho portata proprio a un punto, ce la porta a 5 watt, la potenza 24 su 24 inserita con l'antenna tarata bene, io l'ho portata con l'antenna mia e quindi è rimasta tranquilla, però con questo vantaggio ha una bella radio in FM anche. E la potevi lasciare anche a 10 va benissimo, con 10 watt va bene il BV. E dipende, se gli attacca il BV131 va bene, se gli mette un 747 lui greba. Un 747 non lo so, però il BV131 lo tiene, va alla grande. E io gliel'ho portato una via di mezzo, gliel'ho messo a 8 watt in modo che lui sia tranquillo, perché se non vuole attaccare l'amplificatore con 8 watt va dove va, in ogni posto, sia ma da in FM da 8 watt, attenzione. In AM da 8 watt di portante bianca e sale a 18 modulati, capito? Ha un picco di modulazione, va da 10 watt di picco di modulazione in AM. E in banda laterale lo stesso, fa da 0 a 18 watt. Ha un picco di modulazione e va di paura e c'è radio. Ha un picco di modulazione, fa da... In SSB sarà 18 watt parlando, col fischio sale a 20, 22, in PEP. 22 watt fischiando, però modulati sono 18 watt, proprio tu col watt metro, porca miseria, avessi pigne. E infatti ho trovato quel compromesso per quello, perché se attacco un amplificatore non fa danno, perché in SSB sale da un be di picco, un be di picco, quindi la cosa più giusta per un amplificatore era quella. E anche in AM, ho trovato bianchi e 18 modulati, e quindi se gliene davo di meno, o in FM era di meno, quindi ho trovato un compromesso fra. E K, sì, è fatto bene. No, allora già va bene, va bene. Ora anche se lo usa liscio, va benissimo, tanto deve arrivare. Lineare lo attacca solo quando deve modulare fuori e basta. Ma infatti, se proprio di necessità attacca l'amplificatore, capito, gliel'ho fatta perché lui magari cosa non ne ha di prendere, sarà regolare, magari tocca da ridu o si dimentica che c'è pacca amplificatori, invece no, gliel'ho tolto direttamente, gli ho fatto il settaggio e ce l'ha bella così e non gli fa danno. Meglio così, andà bene. E allora Tino è uscito così? Sì, Tino è andato a prendere il figlio, e niente, stavo provando questo microfono in oco originale, mi ha detto che è meglio questo qua dell'amplificato. Oh, adesso cosa stai usando tu? Sto usando il suo microfonino originale, vuoi sentire l'amplificato? Sì, ma coso? Il jack stai usando? No, io sto usando il 6009 mio. Ah, 6009, prova a mettergli l'amplificato a vedere. E questo qua è l'amplificato, guarda a vedere. Cavolo, un bel alto. Questo qua è alto, vero? Cambia tutto, mi sembra che è più bella la radio quella là. Vero, è più bello quello originale. Sì, questa rimane più rauca, più da battaglia, no? E questo qua è il suo microfono originale, eccolo qua, guarda. È una bombetta, sembra amplificato. Vero. Sì, infatti gliel'ho messo e mi ha detto no, questa qua rimane molto sulle tonalità medio-basse. Sì, no, ma va bene così. Oh, magari avendo un microfono che c'ha anche i toni, regolandolo magari c'è bene, migliore. Lo so fra, però per essere una radio da 200 euro, 230 euro, e avere il microfono originale è buona, luce come missione è buona. Sì, quello sì, però io anche l'MVP5 li potresti provare lì, non ne hai di quello? No, MVP5 non ne ho fra. MVP5 ce l'ho +4, ma no, ma mi viene bene, qua mi viene bene col palmarino, perché a volte lo vedi, magari ci siete voi come stamattina che sto facendo qualcosa, prendo il palmare e posso avvicinarlo alla bocca, posso parlare, invece con l'amplificato, se metto troppa amplificazione si sente il rumore di QRA e no. Per esempio adesso tu senti il rumore di QRA, guarda, lascio la portante bianca. No, non sento niente, è solo burro in cuffia. E c'è la televisione alta anche, c'è la televisione un po' alta anche. No, va bene, aspetta, andrà bene, oh. Ma stasera entrate siete? Sogo tutta la sera in radio, fra, sogo dare 3. Ah. No, io no, prima mi sono dormito, poi è giunto niente, mio fratello è giunto e la gente la deve uscire. Siamo dalla primavera Gianni, la poi vera Dino, la poi vera Fannino, la poi è entrato Giuseppe da Ottava e c'era Giuseppe e cose. Siamo tutta la sera, va giù, le radio mi sono potenti. Sì, a Vanino l'ho sentito prima di andare a mangiare, l'ho sentito, che ero lui e Gianni. e poi me ne sono andato a Feriburu Duffis, sì. Sì, sì, sì, sì, sì. Niente, niente. Ah, mi stanno arrivando, ho trovato i finali per il Saturn, ecco, ho trovato gli originali. 30 zincu euro. Tutti quanti, tutto il kit dei finali. Ottimo, già va bene, se l'hai trovato è meglio. Capita. Allora fra poco fai risuscitare quello. Se riesco, se non c'è qualche perché, io ho seguito gli schemi, però pari tutto a Puglio. Adesso provo a cambiarli tutti, io ho trovato gli originali, ho trovato il 1969, ho trovato il pre, ho trovato anche quello verde, mi stanno arrivando il kit completo, dalla Germania stanno arrivando. Nuovi di pacca e originali. Questa è più la spedizione dei finali. Me lo immagino, costa. Spedizione dalla Germania, dalla Francia, da Miarugu, Gusta, una pacca di dinari. Poi quella dagli Stati Uniti, da Ivi non si può usinare nulla. È che c'è una cosa gusta di 10 euro. Ti fate pagare 30 di spedizione. Sì. No, vabbè, io me lo voglio mettere a posto, fra, perché è un regalo che mi hanno fatto e ci tengo e me lo metto a posto, lo tengo gelosamente, me lo metto in quantazione e niente, anche se questa radio dovrà girare con 5-10 watt massimi. Però adesso vediamo, Tino ha un BV2001, un amplificatore, e devo andare a prenderlo, mi ha detto sistematelo, e quello adesso è un po' inguaiato. Adesso come cambio il finale a Saturneco vedo che funziona tranquillo, e dai, prendo quel BV2001 e me lo controllo, lo metto a posto, se riesco, ho trovato una scheda madre in internet a 30 euro, dice che è buona, e me la faccio mandare, gliela sostituisco, gliela metto a posto, vediamo un pochino. Se riesco a fare aghi su ripongo a Saturnelco, li metto il Tarnet 3 e il BV2001 e vediamo come entisce, proprio vintage, proprio anni 80, e vediamo un po' come resta radio. Capita, il BV2001 dovrebbe dare 400 watt, gli dà 400-500 watt, dovrebbe dare i valvolari e secondo me i pigni fogli, e gli faccio una bella regolazione per la M, perché in FM con lo Saturneco non me ne frega niente, e Saturneco gli faccio una bella modulazione per la M con il BV2001 e il TAN, così vediamo un po' gare tu cosa annisce. E quello è il mio sogno, Saturneco e BV2008, io te l'ho sempre detto, Saturneco, Turner e BV2001, regolato bene in AM, e poi ti posso intendere una radio come ti si dice, piace del 440 o coso, lo so che secondo me, solo è un barrasone che so che un barrasone. E quanto ero grosso, quanto ero Galaxy. Lo so che è grande. Però porca miseria, almeno una linea vintage la voglio avere. Il mio coso era una linea 50 della Summer Camp, della Summer Camp, la linea 50, chi? Quella lì ha già detto, chissà, prima o poi mi la compareggio, perché quella è la linea che aveva mio nonno. Non so se tu te lo ricordi, a Corsaro Nero di Porto Torres lui parlava con la Summer Camp, era con la linea 50 e aveva un amplificatore Summer Camp, aveva due scia sempre con 500 watt, no, scia sempre con 500 watt, linea 50 e amplificatore Summer Camp, e da via chissà linea anch'io, tutto Summer Camp a via, e niente, e adesso serie l'ho trovata, ma vai, tirano le voglie finite. Adesso mi interessa mettere la foto Saturnecco. E poi Tino ha detto che mi dava quel BV 2001. Compro questa scheda e vedo di farmi questa linea per la M. Metto un commutatore con la radio che sto utilizzando adesso, questa qua la uso in FM in banda laterale, e il Saturnecco me lo uso in AM, con l'amplificatore, così, e il TAN, si dicono, ma ha una modulazione un po', chi sa, è originale anni 80. Originale anni 80, 60, 70 e 80. Così è, fra, già sono belli, già davvero, già sono belli, tanto, vabbè, ti dico una cosa. Vizio non agio, non faccio vizio nuda, non esce, non fosse nuda, Roma, qui la cosa di queste quattro radio cagate, la puoi sapere. Ma che la puoi, a me non me la fotti manco puttami. Per quando passo questo paio d'ore qua e passarmele bene. C'hai ragione, ecco, a me è lo stesso, anche io sono così, non c'ho nessun vizio, non conosco, non ho niente. L'unico spasso che va giù è in Ogan. E allora? No, io già naggio cosa che fa, travaglio, vuole in campagna. Però ci sono i momenti della giornata, capito? A me il dopo cena o quando sono che c'è tempo cattivo, che sono dentro casa, che va giù, lo fa giù dove i libari, mi rivoglio, basta, no. Basta, finito. Tanto inutile cosa c'hai, guardate la televisione. Io sto odiando guardare la televisione, guardare telegiornali, guardare cronaca nera, quindi la televisione la tengo chiudata, quando gioca l'azzurra, e prefiro farmi di quattro giacciare in radio quando vuoi anche tu, anche se no, la tengo in ricezione e mi porto altre cose. Quindi è così. Adesso vediamo un po' cosa ne esce. Adesso non cantiamo vittoria, non canto vittoria. Quando c'è la roba qua, riuscirò a montarla, vedremo di fare la prova com'è. Ecco, sì. La televisione, dimmi che televisione, qualche film è bello, boh, basta, poi telegiornale, ma si dà un po' tutto, è tutto di grazie, è tutto maledizione, guerra, c'è la biglia in culo, è di canto ciò. Ma tutto omicidi, tutto negri, tutto politica, tutta Europa, non dazzini una notizia, non c'è un giorno che ci sia una notizia confortevole che ti dice, ah, che bella notizia, mai, nulla. Ormai Canale 5, Italia 1, Rete 4 è tutto audience, non c'è una bella notizia, non c'è, quindi io sicuramente vado a giudicare i problemi miei, no? Chi meno gravi, chi più gravi, però ho già i miei problemi. Io non mangio di punire il problema dell'Ucraina, della Russia, di Guido, di Ghittato, di Salvini, della Meloni, di Conte, di Ghissi, no? Di Guido chi si ammazza, di Guido, a me non me ne ha fotti tutta. Io voglio starmene tranquillo, quindi a me dei problemi degli altri non mi interessa niente. Si rapigliano i luci, la televisione, mi figlio la sapete, un paio di cartoni animati, si accogliono un poco di musica e telegiornale assente. No, ma io se... Richard, mi stai disturbando. Non neanche, il canale 5 neanche lo guardo. E se capita che c'è un film che mettono fuori il telegiornale per qualche cosa, abbia la tua. Richard, tu stai facendo contest, però mi stai disturbando. Io ho diritto di parlare come te. E cosa vuoi? Attacca i lineari, buonasera. Ma porca miseria, ma è tutta canta la sera che mi mandi l'amplificatore in palla. Cioè in TX normale per andare in CV doppio, io li vengo incontro a non trasmettere con coso, però porca miseria, è tutta la sera rompendomi, cosendomi la parola, le palle. che cazzo! Richard, mi stai disturbando, sto devo trasmettere anch'io in radio, adesso te l'ho detto, basta. Ma mica ti sente? Sì che mi sente perché già mi sente, basta, basta, mi ha rotto i coglioni. Cazzo di aura, è puttana troia, oh, scusando la parola, però è tutta la sera, è da venerdì, basta, basta e basta. Cazzo di auro. Aspetta adesso, mangiando un biscotto, dopo ti rispondo. Porca miseria durata, oh. Cazzo, ma non posso passarmi 2 ore tranquilli. Va, mi sta fatiscire le parole da mezzo dai fianchi, chiccione. Cioè, basta, basta. Stop, please, stop, basta. Vai, fra. Cappa. Ciao, Tino. Che frequenza è? Magari è se lo bongi nel buraetto, eh. Cazzo di auro, è un'ora, cazzo, e basta. Ma quello perché non hai apparati Siri? Non ho apparati Siri, già ce l'ho gli apparati Siri, non ce l'ho accesi per rispettarlo. Puttana Eva, ma cazzo, ma si buoni, cazzo, basta, anche io ho diritto di passarmi un paio d'ore tranquille, no? E poco fa, caspita, ha preso e ho detto un attimino mangio e ho dovuto dire una bugia perché mi stava rompendo le scatole. Adesso sono già le 10, credo che il contest da venerdì sarà fatto. Mi è rompito veramente le balle. Attacca lineari, attacca lineari. Sì, a vedere se si la piglia in culo. L'ha già attaccato davvero l'amplificatore. Avassi la biglia in culo. Ascolta, scendo a portarti questo qua, lo vuoi, lo smonto? No, non c'è bisogno, non c'è bisogno. E per il quieto vivere, caspita, uno prende e sta tranquillo. Però, porca miseria, ma non si può, cazzo. Cioè, è che mi manda in trasmissione. Cioè, mi stava mandando l'amplificatore in trasmissione da solo, l'amplificatore spento, i TX acceso, e basta, no? Lì c'è carico, c'è carico. Vabbè, basta dire, ascolta, se mi si rompe me lo spedisci tu. Cosa? Da sa va, cosa fra? Ho detto, quello non ha da 10 watt come ce li hai tu, quello ne ha 200.000. Ho visto un altro kilowatt e mezzo. Porca miseria. Cioè, io non dico, io ti do precedenza perché mi dice, cioè mi ha avvisato, c'è un contest e va bene, non c'è problema, però caspita che non posso prendere neanche e trasmettere neanche io che mi manda la radio in tilt, e porco Giuda, e davvero mi sto corrompendo i fatturi, vabbè, quello è il coso di avere un vicino con lo stesso hobby, vero Tino? Guarda, io sono sempre stato del parere che se non posso essere il numero uno in trasmissione, lo sono in ricezione, te l'annullo e tu non ascolti più niente. Ah, anche quella è una tattica. E allora, pane pane fino al vino, diceva quello. No, ma il fatto, io ti rispetto l'ubbi di tutti, però porca miseria. Cioè, uno si deve anche limitare, eh. A me non mi interessa niente, io ti vengo incontro, però non mi devi neanche disturbare neanche a me. Io non ti dico nulla, però. Cioè, che mi piglia e mi accende l'amplificatore, cioè mi stava accendendo l'amplificatore, mi mandava l'amplificatore in TX da solo. Cioè, ma pensa tu. Tu non c'hai il numero di telefono che glielo dici, guarda che sei disturbato anche tu, scusa, anche io ho diritto di farlo. Poi vabbè, se la prende male vuol dire che annullo la ricezione. Ah, se la piglia male io ne chiudo tutto, non me ne affutti nulla. Però no, cioè io spengo tutto, non me ne frega niente. Però no, non mi sembra neanche giusto, io ti vengo incontro. Cioè c'è un contest in 40 metri, ma che mi sblatteri qua in 11 metri, mi pare un po' carino, un po' esagerata la cosa, eh? Sai cos'è, che raccoglie, quindi tu ce l'hai a tiro, quindi le prendi. Lo so che li prendo. Purtroppo non ci posso fare niente, però cioè, anch'io ho diritto, eh? Anch'io ho diritto. Certo che sì. Vabbè, dai. Cosa potete dire, ragazzi? Ui, che tempo. Ma domani ha messo acqua, così? Sì, domani ha messo pioggia. Un attimino, mi allontano che qua, scusatemi che ho la giovinica a fior di un attimino, me ne vado fuori, fumo una sigaretta, che sennò oggi come non disagio, riprenditi. Adesso anch'io mi devo allontanare un attimino dalla radio perché mi sono ricordato che ho preso il gasolio e c'ho la macchina, non vorrei che mi si girasse il bidone e poi puzza tutta la macchina, scusate. Scusami fra, riprendo subito, abbi un attimino di pazienza, ma scusami un attimino. E io, vai. Fatto, e beh fra? Qua mi stavo guardando a vedere il meteo, anche domani un po' d'acqua. Un po' d'acqua, lo bagno? Qua già non scende acqua. Già, se non può scino, esce. Con 14 gradi e debole piogge. Debole piogge dura dalle 7 del mattino, dalle 7 del mattino sino alle 2, dice che mette, poi magari cambia. Sì, magari cambia. E a volte quello che mettono lì non cambiano. Sì, a volte è cambiato anche, come si dice, nel corso della giornata. Certo, sì, vabbè. Vediamo domani cosa succede. Lo vediamo, da tanto. Poco cambia. Allora, almeno Vanoa ci manda l'acqua. Ma perché sempre un giorno su un giorno siete? Ma secondo me è il doppio di Borobudovic. Non lo so. Noi abbiamo fatto l'altro allaccio, però non è operativo ancora. Cioè, abbiamo fatto l'allaccio per vedere se mettendo l'impressione andava bene, capito? Prima ci hanno lasciato più di 2 settimane, ci hanno lasciato anche senza acqua. E 2 ghedi sono manni. Io ce l'avevo una scorta di 1000 litri, però non basta. Quello va bene se ti dura una settimana, te la dividi giorno per giorno e va bene. Ma quando si tratta di 2 ghedi è un casino. Lo so. Ma tu dovresti operare per dire nel giorno che hai l'acqua, mettiti, riempi la cisterna e ti fa un po' di scorta, perché giustamente è un casotto senza acqua, poi insomma, per qualsiasi cosa la usi. Certo, a noi ci stanno mandando, un giorno sì e un giorno no. Io ogni 2 giorni mi riempio, come arriva l'acqua, mi riempio su. Ho ripreso. Adesso me ne metto un altro serbatoio, un altro da 1000 litri, glielo metto a fianco, glielo metto. E almeno ne ho 2000 litri, almeno se capita qualche guasto o qualcosa ce l'ho, se no sono covuttito. Sì, ok. Allora, però ti devi fare un conto, perché adesso non vorrei sbagliarmi, ne ho una da 3000 litri, però sai, 3000 litri in pochi metri quadri sono pesanti, quindi dovresti fare un calcolo dove metterlo anche, perché a me mi avevano detto che erano pesanti, un geometra mi ha detto, però sinceramente io l'ho messo in un angolo dove c'erano 2 travi a spessore, quindi non credo che si faceva niente, 3000 litri o 5000 litri che erano, sono quei panettoni grandi, adesso non mi ricordo se 3000 o 4000 litri o 5000 litri. Oh, quelli sono troppo grandi, io sto parlando di quelli da 1000 litri, 2 da 1000 litri, io li metto negli angoli, in fondo li metto, uno in un angolo, uno nell'altro, che ci sono le travi, lì ci sono, e non è tanto pesante, capita da 5000 litri, già ti grido. Sì, già lo so. Vai, Gavin. Beh, fra, e mettili sopra le pianelle smorzano, le pianelle smorzano, fra, mi metti 2 pianelle in legno e così ti smorza il peso, ma che pare così, ma la pianella dai, non ti dà tutto i 2000, dai, 2000 litri non te li dà tutti su un metro, per esempio, ma te li dà in 2 metri, quindi il legno già ti smorta un po' il peso. Sì, oppure ti metti due travi lunghe che prendono alcuni travetti e suddividi il peso lì. Ma vabbè, già sono pochi chili, che sono 2000 litri, ma che... A volte noi non ce ne accorgiamo, però per esempio ci sono quei mobili che ci sono, quelli di Mondo Convenienza, che sono in sabbia pressata, in sabbia bagnata, caritai. Voi provate a prendere un pannello di quei mobili e vedete quanto può pesare, vi rendete conto quanto può pesare un mobile intero, a caritai. E quello dicono, ma c'ho le mattonelle che si stanno, le mattonelle un po' bussate sotto il mobile. No, vedi tu, fai 600 kg di mobile in un metro, vedi tu, si pesa. Quello vuol dire tanto, quei mobili pesano tantissimo, quindi lo metti sopra due pianelle, lo centri in mezzo alle due pianelle, no? E loro diciamo il peso lo smorzano, lo scaricano nel legno e tu dirai sono sempre 2000 kg, 2000 litri, però è diviso e il pavimento non è risente, mi segui? Sì, capì, ma non sono 2000 litri in un serbatoio solo, sono 1000 litri in un serbatoio e 1000 litri nell'altro, e uno a un angolo e uno all'altro. Cioè? Piglia più poco peso, piglia, no? A una parte. Cioè, non prende tutto il peso da una parte solo. Ce l'ha una parte e all'altra, ai due angoli. Ho capito, ma non stiamo parlando, tu ne puoi mettere due da 2000 litri, giusto? Da 1000. Due da 1000 litri, perfetto. Quindi 1000 litri, quindi sono due da 1000 litri. Quindi 1000 litri non ti scaricano tutti su tipo 50x50, ma ti scaricano su una pianella in legno. Sembra così, ma non il serbatoio non è più leggero, però scarica in 2x2, capito, Fra? Eia, ma è la stessa cosa. O la pedana, o metterle a terra è la stessa cosa. Yes, lighting. È un casino, senza acqua è un casino, Io vabbè, sono un pochino più fortunato per avendo il pozzo, però ho un accumulo di acqua con un vascone anche, per il sicuro. Quella mi fa buona settimana. E più ho 3000 litri sopra quella cisterna nel caso dovesse mancare, svuoto l'acqua lì dentro. Però è sempre, insomma, un punto di domanda, perché non piovendo e non riempiendosi i bacini si prosciuga anche il pozzo, o anche la piscina da svuotare. Oh Fra, ma non ti conviene metterti un autoclave a te? Che cosa me la metto l'autoclave? Ti fai una sorta di raccolta di acqua sopra nei serbatoi di Abanoa. E poi chiudi, quando ti serve di nuovo che hai serbato i vuoti, lo riattacchi il rubinetto e vai sotto autoclave. Al vaccino mi attacco. Cosa, Fra? Non hai capito cosa ti sto dicendo? Tu in pratica usi Abanoa come pozzo, no? La porti sull'acqua, ti riempi i serbatoi e poi la chiudi. Hai capito? Cioè, io capisco che usi Abanoa. Cosa devo usare il pozzo di Abanoa? Allora, tu hai Abanoa, giusto? Certo. Ok. Tu con l'acqua di Abanoa ti riempi i serbatoi, ok? E Abanoa la chiudi. Tu Abanoa non la metti comunicante alla rete idrica di casa. Tu ti mandi il tubo, tu dal contatore di Abanoa ti mandi il tubo diretto al serbatoio. E poi una volta il serbatoio è chiuso, una volta che Abanoa non ti serve più l'acqua, lì metti il galleggiante e ti chiude la mandata e ti usi l'acqua che hai nel serbatoio, se ti devi mettere i serbatoi, e ti usi l'autoclave. Sì, ma fate il serbatoio, fate in biodenti e torna già piena. Ah, ti ho compreso, ma rubieni quando ti sivi. Rubieni quando ti sivi. Compreso cosa ti so dicendo. Non è che tu abbano acqua. Se ti dovesse mancare l'acqua, quello, quando loro prendono e riattivano la linea, il contatore va vuoto. Il contatore va vuoto e chissà roba la paghi. E chissà roba la paghi. E paghisci che io pedaggio diretto. Allora, la leva diretta entra direttamente nel serbatoio. Poi dallo serbatoio faccio una, un motorino che mi la tira dentro gas, all'impianto. E fate, scendi e entra in leva. E mi sempre pieno. Ma così capito non si sta dicendo, in realtà è vero, la stai pagando due volte l'acqua tu. Vabbè, cosa vuoi fare? Se mi manca da buio. Capito non ti sta dicendo di metterti due o un serbatoio o due serbatoi per accumulo, nel senso che quando tu hai l'acqua, oggi tu hai l'acqua, ok, ti riempi quei serbatoi, va bene? Ti riempi quei serbatoi, però chiudi l'acqua solo ai serbatoi, non devi chiudere l'acqua al tuo impianto. Quando utilizzi l'acqua del tuo impianto va bene, quando l'acqua te la tagliano al te perché l'indomani non ce l'hai, allora usufruisci dei serbatoi che hai riempito il giorno prima. Ah, tu stai dicendo a chiudere i serbatoi e a usare l'acqua di linea? No, non mi stai capendo. Allora, a te ti arriva l'acqua dal contattore di Abanoa, giusto? Tu hai la rete di Abanoa, giusto? Invece di mandare la linea dentro casa diretta di Abanoa, tu la mandi dentro il serbatoio, tu o l'acqua diretta di Abanoa non passi dentro casa, passi nel serbatoio, passi, fai dal contattore al serbatoio. Una volta che tu riempi i serbatoi, no? Una volta che tu riempi i serbatoi, Abanoa la chiudi. Altrimenti se tu metti un autoclave o metti un galleggiante, tu quella linea, una volta il serbatoio è pieno, la interrompi. E dal serbatoio mandi la linea e vai dentro casa. Cosa succede? Che quando manca l'acqua, che sta succedendo spesso, prendi e non ti ritrovi scaldabagno vuoto, non ti ritrovi linee vuote, non ti ritrovi quell'aria nella condotta, perché tu hai sempre il circuito pieno. Tu l'aria non ce l'avrai mai, perché cosa succede? Il serbatoio o l'aria dentro casa non ce l'avrai mai, e neanche l'usura dei, guardate, posso dire, una lavastoviglie, ti si blocca, no, non ti si blocca più, perché tu hai sempre l'acqua continua dall'autoclave che ti porta al serbatoio, mi segui? Ma certo, quando manca l'acqua c'ho i serbatoi, c'ho l'acqua dei serbatoi, ma è giusto così. Ho capito, però tu hai a panò e serbatoio compreso, una volta che metti i serbatoi. Cioè tu come fai a prendere, a passare, devi mettere uno sdoppiatore, giusto? E ce l'hai a caduta. Allora, non ce l'ho a caduta, c'ho il motorino di spinta. Perfetto, hai il motorino di spinta. Invece di mettere il motorino di spinta, tu metti un autoclave, tu metti un classico autoclave. E a Banoa la mandi, invece di andare nelle utenze dentro casa, quella lì la togli e vai diretto, tu fai dal contattore al serbatoio. Tu fai dal contattore al serbatoio, ti fai un bel pezzo, ti fai un bel fondo, cosa ne gioco, ti fai un bel livello, e poi dal serbatoio vai a dentro casa, e così l'acqua non ti mancherà mai. Se tu sai che il giorno prima ti manca l'acqua, se tu sai, perché per esempio il comune dice il giorno 28 e 29 mancherà l'acqua, perfetto, avevi pieno i tuoi serbatoi e sarro rubinetto, sarro contatori mio. Quando tornerà l'acqua, l'aria si rabbiglia nei lastri, a te t'arrivi, leva diretta, l'acqua diretta, perché tu le tubazioni non ce le hai mai vuote, ce le hai sempre piene di acqua, perché aria non ne hai, mi segui, tu usi l'acqua che ne serba a tui, e quando l'acqua tornerà non avrai mai aria e non paghi roba in più, capito, fra? Vai. Aspetta, voglio pensare, hai capito, Fra? Diciamo che io quando, allora, io faccio solo questo lavoro qua, quando mi riempio i serbatoi poi li chiudo e uso l'acqua diretta, quando non c'è acqua diretta chiudo giù e apro i serbatoi, boh, basta. Perfetto, perfetto, e fin qua ci siamo, e fin qua ci siamo. Però devi chiudere il contattore di giù, devi chiudere il contattore di giù, cioè il rubinetto che c'è nel contattore, non quello che c'è su a fronte del serbatoio, perché tu nella linea che va dal contattore al serbatoio, tu di lì hai aria, capito? Quindi io di lì ti consiglio di metterti un bel autoclave sopra nel serbatoio, tipo un autoclave, e ti ne tirare vabbè da e c'è sempre bella impressione, perché la pompa di caduta riesce a caricarti lo scaldabagno, riesce a portarti una lavatrice. Se per esempio se tu devi farti la doccia e devi usare una lavatrice e tu moglieri e la vendi i piatti in un altissimo momento, tu riesci a farti una doccia, interrogativo? Sì, con la, col serbatoio sì. No, con l'autoclave. No, io a parte che non le ho di scaldabagno, cioè quello a gas, e io con quella del serbatoio riesco a farmi la doccia, come non ci riesco? In maniera. No. Ragazzi, io vi devo mollare, che devo prepararmi la roba per domani e farla mangiare ancora ai cani. Al limite vi ascolto, però non riprendo, dai. Nel caso ci sentiamo domani, ok? Vai Gavi. Sì, no, ma tu hai capito il mio discorso. Sì, è per non tenere i tubi butti e pagare anche l'aria quando non c'è acqua. No, no, è per non avere l'autoclave, per non avere poca pressione anche quando, per esempio, se la moglie sta lavando i piatti e lui si vuole fare la doccia, ha detto che non c'è scaldabagno e quella è già una cosa buona, che c'è la caldaia a gas, quello è ottimo. Però non so questa pompa di coso quanto possa tirare per usufruire tante queste cose qua. Un autoclavetto fra e tu sei alla grande. Va bene, ti dai, ci ascoltiamo domani, se coincide, io già sono, se coincide, se non coincide è per colpa vostra, le radio qua sono accese domani, quindi se non coincide è per colpa vostra, non per colpa mia sicuramente. Con questo, buonanotte, buon tutto e buon lavoro per domani, e buonanotte a te e a quel real familiare, ben sentito come sempre. Libero del QRT. Vai Franco. Piglia, ciao Tino, dai. Buonanotte, buon tutto, dai. Buona giornata per domani. Non torniamo anche al Correa. Ci sentiamo domani. Sì, Gavi. Va bene, ciao. Ciao Tino, ciao. Capito, fra, io qua ho attivato un posto. Io qua, siccome anche qua manca l'acqua, io qua ho attivato un posto. E ho osservato io. E ho osservato io da 500 litri, non l'ho messo grande, non l'ho messo bugia da 1000 litri, non l'ho messo grande, e accumula l'acqua del pozzo e la uso, l'ho preso da 1000, perché proprio la uso tutta, cioè prima non riuscivo, avevo regolato il galleggiante per mi rimanevano sempre quei 500 litri d'acqua, poi gli ho fatto un coso, un'asticella che riesco a consumarne 800, però 200 rimangono sempre sotto, e sarebbe saputo aver preso da 500 litri, perché così l'acqua non rimane a fondo e non stagna, capito? Allora capi, tu ce l'hai in terra, ce li hai i serbatoi, ed è giusto che ci hai messo un autoclave. Io non ce l'ho in terra, io ce l'ho sul terrazzo. Oh, per spingermi l'acqua all'impianto dentro, quando non c'è acqua di linea, c'ho un motorino da mezzo cavallo, ma ti dico che lo spinge è anche forte l'acqua. E io faccio tutto con quello, tutto. faccio la doccia, usa tutti gli elettrodomestici, la lavatrice, queste cose qua, le usa tutte quante. E la grande le usa, capito? Sì, capita, mezzo cavato, mezzo cavato, tu metti un motorino, mezzo cavato non è un motorino, mezzo cavato è una bomba, fra. Piccolino, è un motorino piccolino, però è mezzo cavallo, non è tutto questo, non è un autoclave, e ti dico che impegni un bel. Mezzo cavato non è un autoclave, mezzo cavato è come un autoclave, fra. Buffonetti, se mezzo cavato tira, faccio la pompa, c'ho la pompa della fossa settica che e la pompa forzata che è 250 watt e fa di scinga da 3 metri. Lo so, è ovvio, no? Ma ti dico che va bene, io l'ho sistemato così e infatti adesso quando capita che prendo l'altro serbatoio, io lo piazzo vicino e faccio l'impianto tutto collegato, tutto a un motorino. E viaggio Lumatese e la linea mi rimane sempre piena sino al contatore. Sì. Perché chiudi, importante chiudere sotto al contatore. Sotto c'ho anche una valvola di ritegno. Esatto, in modo che tu non prendi aria, come ce l'ho io, che chiudo quando so che manca l'acqua, dove chiudo giù, intanto qua è accaduta e l'aria si rabbiglia nei lastri. Infatti l'aria, l'acqua che io uso col motorino del serbatoio non esce, non va fuori, non scappa da nessuna parte perché c'è la valvola di non ritegno, cioè è valvola, come si chiama quella, valvola di non ritorno. Sì, non ti fa tornare indietro l'acqua ed è giusto così. Io penso, tu metti un motorino, capita il tuo motorino, cosa puoi dire? Mezzo cavato, se ti rubano un metro e poi c'è la passona. Un aino, ma che? Capita, mezzo cavato non è un motorino, mezzo cavato è già un motore, anzi, è un motore. È piccolino, però è sincero. Ieri gli ho fatto, ieri, gli ho fatto la casetta, gli ho fatto, perché era fuori all'acqua. Sì, va bene, no, mezzo cavallo tira, caspita se tira. Mezzo cavallo devi stare attento, poi vuoi andare per un rubinetto, mezzo cavallo, però accaduta, se lo puoi andare a capricciare a te, capita che mezzo cavallo ti arrivi. Ti dico, la forza di caduta sono un cavallo. Più piccoli non ne ho trovato, più piccolo, però mi va bene così. Ho visto che l'idraulico mi ha detto, dice no, va bene, per l'impianto va benissimo quello lì. No, vedi tu, tu mi hai fatto vedere il motorino, la citava, poi c'è anche il motorino Rizzeri, se mi avessi detto mezzo cavato non ti avevo fatto tutto quanto di suo discorso. Io scaldabagno elettrico non ho mai avuto, non me ne ho mai messo. Dall'inizio mi ho messo sempre quello a gas e c'ho sempre quello. È comodo, con la gas è comodo, è bello. Sì, no, vabbè, io c'ho lo scaldabagno fra. Io faccio lo scaldabagno, però ti posso dire, lo scaldabagno noi ce l'abbiamo in tre, con una carica di scaldabagno, quindi. Dai, la doccia la mattina, la doccia come rientri, te la puoi fare tranquillo tutte e tre, uno dopo l'altro. Ti è confortevole, poi dai, tranquillo. Io ce l'ho sempre attaccato lo scaldabagno, non lo stacco mai, infatti dice, ma ogni tanto si attacca e dasselo attaccare, invece di piana 60 litri in mezz'ora, piana 60 litri in 10 minuti, che è sempre, per cui quando scende la resistenza, l'acqua non è fredda, capito? Quindi ci mette di meno, attacca più spesso ma ci mette di meno. Ancora Ghito non si è compreso, a volte li sciacca e vabbè, la base di cagli 60 litri d'eva, li cagli in 2 ore, invece in Italia Maria 10 minuti erano pronti. Oh, e capita. No, il mio, io quando apro il rubinetto, dopo qualche secondo si scende calda e poi si vede pressione, a meno che non vede pressione, ma si vede pressione non mi manca mai le bagasse, pur se mi sono 3 euro del sotto, non manca mai le bagasse. È una cosa bellissima proprio. Oh, finta che ve bombola non ti mancano. Appunto. Se io ho 60 euro, ho il bombolone da 25 e spendo 60 euro, 60 e qualcosa mi sembra che, e mi dura 6 mesi, 7 mesi, dipende. Questo quanto il bombolone da 25 kg? Sì. 6 mesi è buono, eh? 6 mesi è buono, quanto costa il bombolone da 25? 70 euro, quanto costa? Ma adesso non mi ricordo se era 65 o 70, non me lo ricordo adesso quanto viene. D'inverno mi fa ancora un po' più di meno, perché mia moglie usa l'acqua calda per lavare. Vabbè, fai che ti faccia 6 mesi e viene 70 euro, no? O ti faccia 7 mesi e viene 70 euro. So, di 0 al mese, cosa non stai spendendo nulla? Nulla, io 2 bombole all'anno prendo, e buh. Allora conviene. E come manutenzione? Manutenzione, quando la fa, viene, me la stava facendo Vannino. Ah, ok. Cosa ti cambia? L'ugello, poi la batteria per l'accensione, così è? Ah, la controlla solo così, guarda, va bene, tanto le cose più necessarie, dai, poi le batterie, cioè quelle me le cambio io quando finiscono. Ah, ok, ti cambia lo starter, quella roba lì, il come si dice, il piezo. Capito, sempre a lui l'ho chiesto, me l'ha piazzato, e sempre lui è manutenzione. Adesso quando capita che il condizionatore, gli faccio fare, controllare anche la caldaia. Sì. No, cioè, beh, così è buono. Importante è che, dai, che siete, il coso è fra il risparmio, il coso è il risparmio. E questa pompa a mezzo cavallo, quindi sono 500 watt, però l'attacchi solo quando ti manca l'acqua, giusto? Certo, non è sempre attaccata. Giù ci ho messo un interruttore che io schiaccio lì e parte. Ok, perfetto. Va bene. E fra, ci stanno portando a spendere i soldi a chi, allora, per esempio la stradì, la luce. Ma dico, ma quando mai va, mangio di buoni pungu per l'etrogeno. Adesso io cosa devo fare? I prossimi soldi, fra, mi prendo un gruppo elettrogeno da 3-4 kW con attacco, con l'avviamento gruppo, rete gruppo. Quando scatta passano 5 secondi e si attacca il gruppo elettrogeno. Basta. Avrà già indica che cosa disugli, però senza l'ultimo non vi posso rimanere. Per le utenze, per tutto, la realtà di maniera stato senza luce, dalle nuvi di Manzano vince il zinco di Sira, poi questi sbalzi di corrente, no, non esili. E quindi adesso la prossima spesa è il gruppo elettrogeno stabilizzato, l'ho già visto, butta un po' carito, però alla linea per la corrente. E allora niente, e prenderò quello lì, un MASE 4 kW. Sì, e tu ce l'hai il posto per metterlo, tranquillo, gli fai lo scarico fuori, gli fai lo scarico fuori, poi va, questi che stanno facendo adesso sono silenziosi anche. No, silenziato, lo metto nella, in quel garage che ho qua dietro la casa, dove tengo la roba per campagna, dove divaggio la moto zappa, tutta tanta la roba, divaggio le zappe, i rigori, i raccriti, tanto quelli sono silenziati e sono tutti corbentati. Il prossimo coso è quello lì, vedo un gruppo elettrogeno da 4 kW, 6 kW, chi su che, quando mi dà su un pieno di gasolio, e quando mi si vi piglio anche se non lo prendo con differenziale rete, diciamo rete linea gruppo, si incatta, faccio il, gli metto un